cercavo la luce. Dove sei andata? Cercavo la vita. Senza di me. Cercavo la strada. E lontano. A la gente straniera per me. Guardai su nel cielo, così bello per me. Il nulla non c'era, anche io per te. E se l'infinito una parola dolce per me, era polvere del tempo, e anche un sorriso era luce riflessa dei pianeti. Respirai l'immenso. Mi dai la forza. Racchiuso nel suo movimento. Di stare con te. Non sei mio.